parte un pianeta russo. Ci sono punti rossi, il ferro è rosso e se lo scaldi sembra anche più rosso. Compressi invece pieno di colori, forme allucinanti si riflettono in tre soli. Amalgama che a disegnare storie, fumettoni pieni di animali strani, mondi lontani pieni di animali strani.